Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti. Siamo al venerdì 21 di maggio e siete sempre su Liberi Dentro, il nostro programma talk che parla al carcere e alla città di Bologna e alla regione Emilia-Romagna, sempre su Radio Città Fujiko, Lepida TV e Teletricolore. E siamo all'ultimo giorno della settimana, ma le notizie non mancano. Qui con me c'è sempre Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Caterina. Dicevo appunto, le notizie non mancano, questa volta parliamo di soldi. Leggo inclusione e coesione, ecco gli obiettivi del recovery plan per il carcere, a firma di Damiano Aliprandi sul Dubbio. Perché non solo l'edilizia carceraria, ma anche l'inclusione e la coesione sono tra gli obiettivi dei fondi del recovery plan approvato dal governo Draghi, che salgono a 222 miliardi, una bella cifretta. Sentiamo cosa ci faranno con questi soldini. Innanzitutto questa notizia la si evince dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, e dove si parla di investimenti complementari alla strategia della missione 5, cioè quella dell'inclusione e della coesione. Nello specifico si tratta della componente relativa alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Quindi non è poco questo tipo di investimento. Le risorse stanziate ammontano a 27,6 miliardi divise in tre fasce. Ci sono una parte dedicate alle politiche per il lavoro, circa 12,6 miliardi, una parte per le infrastrutture sociali, le famiglie e il terzo settore, circa 10 miliardi, e una parte, l'ultima, per interventi speciali di coesione territoriale, dopo sentirete che cosa sia. Caterina, scusami, ma si dice qualcosa della riabilitazione dei detenuti e delle misure alternative? Sì, allora infatti la parte delle infrastrutture sociali e il terzo settore sono ciò che serve alla riabilitazione dei detenuti, ma soprattutto per dare ai detenuti le possibilità di accedere alle misure alternative. Sì, perché ad esempio se non si investe sulle misure di comunità, il sovraffollamento è destinato a rimanere. E così come la recidiva si conferma il male più assoluto all'interno del carcere. Ricordiamoci, in Italia abbiamo una recidiva che è attorno al 70%. Quindi questo significa che se una persona esce dal carcere, ritorna a delinquere a causa della mancanza di dimora o mancato sostegno lavorativo, e quindi è un fallimento dell'intera società, cioè è un cane che si morde la coda continuamente. Eh sì, hai detto proprio la cosa giusta, è proprio un circolo vizioso quasi. Senti, tornando un attimo agli obiettivi generali, a che cosa si punta? Sul versante infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore, gli obiettivi generali sono quelli di rafforzare innanzitutto il ruolo dei servizi sociali locali come strumento di resilienza, cioè di forza, mirando alla definizione di modelli personalizzati a seconda della persona che ti trovi davanti per dare un piano specifico. In secondo luogo, migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione sociale a favore delle persone detenute in condizioni di estrema emarginazione, pensiamo alla povertà oppure persone senza fissa dimora. In terzo luogo, il fatto di integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio, per così dire, multiplo su diversi livelli, che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche una volta finita la detenzione, sia la rigenerazione urbana e territoriale. E vale la pena a questo proposito ricordare le parole del garante nazionale Mauro Palma, che alcune volte è intervenuto anche sulla nostra radio Teletricolore, e lui dice, riferendosi alle misure alternative, ha detto chiaro e tondo che quando si propone di ampliarle bisogna soprattutto essere capaci di elencare soldi e strutture, altrimenti è bene tacere. Perché ci vuole un discorso, insomma, quindi anche lui è molto concreto sul fatto e realistico sul fatto che bisogna davvero fare un elenco dei costi e dei soldi a disposizione per arrivare agli obiettivi che ci si propone. Caterina, che cosa ci fai sentire di Bob Marley oggi? Sì, allora concludiamo la nostra settimana in compagnia di Bob Marley con Iron Lion Zion del 1992. Ed è una delle canzoni forse più legate al credo rastafariano a cui aveva aderito Bob Marley. Proprio il rastafarianesimo è questo movimento politico-religioso degli anni 30 negli Stati Uniti. in America, ed è una canzone scritta nel 1973, venne pubblicata dopo la morte di Bob Marley, che avvenne nel 1981, ed è legata, per l'appunto, dicevo, al rastafarianesimo, a cui Marley si convertì da ragazzo, e si diceva che Zion, cioè sarebbe Sion, è la terra promessa, con un chiaro riferimento all'Etiopia, cioè alla nazione dove il rastafarianesimo nacque. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, e siamo sempre ora con te, Antonella, che ci parli dell'animale della settimana. L'animale, noi tutte le settimane abbiamo un animale di riferimento, oggi i cani. Sì, anzi, Caterina, se ti ricordi, la settimana scorsa avevo parlato dei gatti che gironzolavano in Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo, certo, eccetera. E quest'anno invece parliamo un poco della stessa area geografica, ma parliamo dei cani. E parliamo dei cani un po' nell'Islam. In effetti i musulmani osservanti sanno bene che la dottrina dell'Islam, interpretata in maniera molto stretta, non vede proprio di buon occhio i cani, ma perché per una serie di motivi. Esistono vari hadith, cioè gli insegnamenti attribuiti al profeta Muhammad, cioè Maometto in italiano, che descrivono il cane come un animale con cui non è opportuno dividere la propria casa. Da anni però si discute se queste indicazioni non siano troppo strette, siano in realtà legate un po' a un periodo storico specifico, che in realtà voleva veicolare dei consigli igienici semplicemente. E infatti anche l'ebraismo non apprezza i cani, in generale gli animali selvatici, e quindi insomma c'è questo utilizzo della religione un poco per moderare certe usanze, certe abitudini. Quindi al di là di quello che è dogmaticamente per un certo credo religioso l'impurità e la purità, questo dei cani nell'Islam rimane un problema igienico? Allora sì, ti dico anche un'altra cosa. L'Economist ha citato il parere del Gran Mufti d'Egitto, che ha detto semplicemente che sulla base di un'altra tesi dell'Islam, tutti gli animali sono puri perché creati dalla divinità esattamente come l'uomo. Quindi effettivamente il problema qual è? Il problema è la saliva del cane, che è percepita come estremamente impura. E infatti c'è un altro hadith, sempre di Muhammad, che dice esplicitamente che se un cane lecca un contenitore, quello che c'è dentro va buttato, mentre il contenitore va lavato 7 volte prima di essere riutilizzato. È una misura igienica a tutti gli effetti. E l'ostilità verso la saliva poi si estende anche al proprietario, in realtà, per cui crescere o vivere con un cane nella propria casa non è permesso dall'Islam in nessuna circostanza, se non in certe situazioni in cui i cani sono cani da guardia oppure aiutano l'uomo a cacciare o a badare gli animali, a patto che però non entrino in casa. E in effetti c'è stato anche uno studio da parte di Alan Michael, un professore di storia che insegna a Yale, che ha pubblicato un libro sugli animali nell'Egitto in età ottomana. E infatti dice che fin dall'antichità anche nei paesi musulmani i cani venivano utilizzati per guardare le bestie e per tenere puliti gli ambienti comuni. Infatti di solito, sapete, gli animali spazzolano tutto quello che trovano a terra e poi le cose sono cambiate successivamente a causa delle pandemie. E quindi allora la pandemia che ci stravolge sempre la vita e i punti di vista, in questo caso come sono cambiate le cose dopo la pandemia, le pandemie. Hai ragione, cara mia, perché anche noi stiamo attraversando un momento difficile, ma per fortuna i nostri animali non ci veicolano nessuna malattia. Questa è una grande cosa perché possiamo ancora tenerli con noi e insomma, badare a loro come facciamo di solito. Intanto vi dicevo, tornando un attimo ai cani nel passato, la correlazione con le epidemie, ecco, con le epidemie di peste, perché in quel tempo c'erano peste, malaria, colera, e avevano capito che c'era una correlazione tra alcuni luoghi molto vicini alla città, o addirittura all'interno della città stessa, come cimiteri, discariche e laghi paludosi, che di fatto contribuivano a sviluppare questa malattia. E i cani mangiavano nelle discariche o comunque erano molto prossimi a queste aree, per cui spostandoli fuori dalla città, praticamente anche gli animali, i cani, sono stati allontanati dal centro della città. Quindi diciamo spesso è una scelta politico-sanitaria, ecco, che un po' diciamo si appoggia al dogma e lo utilizza proprio per regolamentare la società. Ora però c'è da dire che negli ultimi anni sempre più giornali e riviste hanno pubblicato testimonianze di proprietari musulmani di cani che cercano un po' di sfatare i miti sulla loro presunta impurità. Insomma, al cane non si può non volergli bene e quindi fuori casa o dentro casa è sempre con noi. Grazie Antonella. Chiudiamo la nostra chiacchierata ancora con un brano musicale. Sì, riprendo un brano molto famoso cantato da Mai Farouk. Il brano è Aif Leila Wilayla, che è ripreso da una cantante ancora più famosa che è Umm Kulthum. حبيبي يا حبيبي يا Eccoci, bentornati su Liberi Dentro. Oggi siamo con una nuova ospite che è mediatrice culturale presso il carcere della Dozza di Bologna. Buongiorno a Natalia Veleva, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. E stiamo facendo con te un'intervista a tema, diciamo, cultura e società rumena, perché oggi affrontiamo la figura di un grande poeta, filologo, scrittore, giornalista, politico, appunto rumeno, tardo romantico. Il suo nome è Mihai Eminescu, 1850-1889. Lui è considerato un po' il poeta vate ed è anche considerato ancora oggi importante per tutta la società rumena. Ti chiedo il perché di questo e anche quali sono, diciamo, i temi più importanti affrontati nelle sue poesie che restano attuali ancora oggi. Assolutamente sì, Mihai Eminescu fino ad oggi è veramente una persona, un poeta molto molto importante, talmente tanto che addirittura la giornata della cultura nazionale in Romania è stata istituita proprio il 15 gennaio, proprio nel giorno della sua nascita. Prima di dire il perché della sua importanza nella cultura e anche società rumena, vorrei un attimo introdurlo anche per il pubblico italiano, giusto per far capire chi è, paragonandolo semplicemente al grandissimo Leopardi italiano. Ecco, cioè lui in Romania sarebbe il Leopardi italiano, addirittura anche forse un pochino di più. Perché Mihai Eminescu è proprio quella persona, quel poeta che ha creato la poesia rumena, cioè meglio del meglio non può esistere. E i temi che tratta lui, che sono comunque molto importanti e fino ad oggi molto in voga, è ovviamente l'amore. Che è la cosa bellissima che possa essere. Lui tratta tantissimo l'amore anche non corrisposto, anche a causa del suo amore con la donna più bella dell'epoca, la posso dire così, che era Veronica Mikle, che purtroppo non ha avuto mai la possibilità di riconciliarsi, di vivere questo amore con lei, e qua mi viene il paragone di Dante con la sua bella Beatrice. È proprio la stessa cosa. Ma siccome allora per addentrarci un po' di più nella sua poesia, ti va di citarci qualcosa e anche magari di tradurcelo in italiano? Certo, assolutamente. Una delle poesie, diciamo così, le sue poesie più importanti è Luciaforul, che la conosce qualsiasi persona dal mondo, diciamo così, rumeno, cioè sia in Moldavia che in Romania. La studiamo a scuola dalla prima elementare e è lunghissima, e invece recito soltanto le prime due strofe. A fost odată Campovești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate celea, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Tradotta in italiano, spero di farlo bene, sarà tipo: c'era una volta, come mai? Così, narran le fiabe, una fanciulla senza pari, di gran ceppo regale. Ed era unica ai parenti, stupenda fra le belle, come la Vergine fra i santi, la luna tra le stelle. Bellissimo, Natalia. E allora interrompiamoci un secondo con un brano musicale, cosa lanciamo? Allora, io vorrei proporre il brano musicale. Che proprio parla cioè, tratta un'altra poesia di Eminescu bellissima, Sotto i pioppi dispari, si chiama, in rumeno sarà Pe lângă plopii fără soț. Ascoltiamola. Adesea am trecut, mă pun o cunoșteau vecinii toți, tu nu mai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume întreagă înțelegea, tu nu mai înțeles. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume întreagă înțelegea, așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, sulle note musicali di Andrea Vasile, quindi che hai appena lanciato. E tu, Natalia, dicevo all'inizio, sei mediatrice culturale al carcere della Dozza da più o meno un anno, dal dicembre 2019. E ti chiedo, credi che sia importante per i detenuti rumeni che ci stanno ascoltando in questo momento sentir parlare dei propri riferimenti culturali e perché? Oddio, direi di sì, per qualsiasi persona straniera che si trova essa in carcere oppure fuori, è molto importante sentire parlare della propria cultura. Ovviamente di più questo sentimento, secondo me, è presente nelle persone che attualmente vivono in carcere, forse anche perché sono tagliati un pochino fuori proprio dalla propria, non soltanto terra, ma anche dai propri cari, che con i quali non possono più parlare oppure interagire così facilmente come l'hanno fatto prima. Perciò sentire una vocina che ti recita, non lo so, anche la stessa poesia che la sapevi da piccolo, oppure sentire una canzone, un pezzo che conosci oppure no, ma comunque sentendola nella tua lingua, è una cosa veramente molto importante. Quindi dici che anche in una situazione di detenzione, come no, anche ricordiamo anche le persone migranti che giungono in Italia, sia comunque importante continuare a mantenere i propri riferimenti culturali, coltivare una propria cultura del riferimento al proprio paese. Assolutamente sì, sono d'accordo con ciò cosa hai detto, perché comunque non scordiamoci che la nostra terra ci sarà sempre dentro di noi, cioè il nostro sangue ci scorre sempre dentro di noi, ecco, cioè il sangue acqua non si fa, un bel detto rumeno. E nonostante il fatto che tutto ciò c'è dentro di noi e non ce lo scordiamo, sia le persone che migrano dalla propria terra, dal proprio paese, ma anche le persone che sono attualmente, cioè che sono per un momento, per un breve periodo di tempo, oppure lungo, quello che sia, rinchiusi sì, in una struttura, ovviamente sentono quel sentimento inspiegabile, tipico della nostra terra, che è il dor, che purtroppo non se la possono levare proprio, ecco, è proprio per poter coltivare meglio la propria cultura e non soltanto non essendo, non vivendo nel proprio paese, il dor, nonostante tutto ciò cosa significa, ci aiuta molto, perché è molto importante, perché è soltanto così che possiamo andare avanti, ecco. E allora, guarda, io sono curiosissima di sapere cosa sia il DOR, che giustamente non mi hai tradotto in italiano perché è impronunciabile, allora ritorneremo su questo la prossima volta con te. E siccome nelle nostre vene scorre il sangue, come dicevi tu, della nostra cultura, ma riferita anche alla musica, che brano lanciamo ancora? Allora, io invece stavolta vorrei proporre Di nuovo, per tornare al nostro Mihai Eminescu, un brano scritto sui suoi versi. La poesia si chiama Gashavea e il brano si chiama Gashavea, tradotto sarebbe Se avessi. Questo brano è molto moderno e spero che vi piaccia. Ascoltiamolo subito. Grazie Natalia, alla prossima. Aș avea și eu o floare, mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai, fii ce dulce a unui plai, fii ce dulce. Râzând cu iarbă verde, ce se leagă, se pierde, unduind încetişor, șopt în șoapte de amor, șopt în șoapte. Iubirea mea, tu nu pleca. E rieccoci, ci salutiamo con le parole di Natalia Veleva, mediatrice al carcere Rocco D'Amato di Bologna. A seguire c'è la ginnastica da camera e a seguire ancora la spiritualità islamica e la cultura araba per le nostre rubriche Oggi parliamo di. Mentre domani, sabato 22 maggio, abbiamo il Rinnovamento nello Spirito con i Magnifici Sette, a seguire il Teatro del Fratello con scritture teatrali tra carcere e città e al termine la rubrica Parliamo di Buddismo. La domenica 22 siete sempre con noi, ripartiamo con il CPA di Bologna con School on Air e a seguire il FOMAL con una ricetta di cucina sempre per accompagnare il nostro fine settimana. Scriveteci redazione liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna. Ci rivediamo sempre con noi per le aperture, i buongiorni di Eduradio lunedì prossimo. Ringrazio Pasquale Pitaniello alla regia e Antonella Cortese, la mia collega di redazione. Buona giornata a tutte e tutti, soprattutto un grazie per rimanere sempre con noi e per ascoltarci. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.